Ho questa passione per le biografie. Prima di vedere un film, di incontrare una persona o di leggere un libro, mi piace sapere chi è quella persona, il regista del film o l'autore del libro. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Dicono che le storie migliori si possano riassumere in tre righe o in tre parole. Quello che è certo è che tutte le storie che abbiamo letto ci rimangono in testa per pochi dettagli, tipo il protagonista, l'antagonista, l'inizio o la risoluzione finale. Se però ci chiedono di riassumere un libro, non sempre noi siamo capaci di farlo. O comunque quello che ci rimane in testa è sempre una selezione piccola e parziale di quello che abbiamo letto. Ad esempio, se penso ai Promessi Sposi, mi vengono in mente un uomo e una donna della provincia di Como che si devono sposare ma non riescono per colpa di un prete, per colpa di uno di cui non si sa il nome e per colpa della peste. Se penso al Gattopardo, invece, mi viene in mente un signore ricco della Sicilia che ha capito come vanno le cose e altre signore del Piemonte che invece fanno finta di non avere capito come vanno le cose. E poi mi ricordo questa frase: cambiare tutto per non cambiare niente. In questi giorni mi è ricapitato in mano un romanzo che tutti quanti hanno letto. È il romanzo di formazione per eccellenza, quello in cui un giovane viene cacciato dalla scuola, torna nella sua città, parla con la sorellina e si nasconde nel parco. E lì diventa grande. E mi sono accorto in questo fine settimana che rileggere i libri che abbiamo letto è più utile di quanto pensassi. E soprattutto che fare lo sforzo per cercare di riassumere le storie che abbiamo letto negli anni passati, anni fa, soprattutto se quelle storie sono belle, ha un senso. Ecco perché, se oggi volete farlo con me, io sono qui. 800 24 0024 per telefonare in diretta, oppure 349 238 6666 per mandare degli sms. Fate così, prendetevi 5 minuti di tempo libero da quello che state facendo in questo momento qui, ma magari 5 no, anche 2 o 3 bastano. Vi fermate un secondo e provate a pensare a un libro, a un libro in particolare, quello che vi ricordate di più per il motivo che preferite voi, perché era un periodo particolare della vostra vita, perché vi ha insegnato molto, perché lo avete riletto, insomma, un libro qualunque, e cercate di riassumerlo in due righe. Se fosse un messaggio, fate così: se me lo scrivete con un sms, me lo riassumete in 140 caratteri, sono quelli di sms. Se invece avete voglia di raccontarmelo al telefono, in due frasi, una frase e mezzo. 800 24 0024, 349 238 6666, un riassunto conciso però completo del libro che vi è rimasto in testa. Elisa, ad esempio, me ne scrive due sul profilo Facebook. Uno è: Ada e Van si innamorano a 12 anni, giocando tra libri e gli alberi di Ardis. Ma sono fratellastri, una vita fatta di momenti di desiderio, di distanza e di altri matrimoni. E a 80 anni, eccoli finalmente insieme per raccontarlo. Questo è Ada di Bulgakov. E poi, sempre Elisa mi scrive: sua moglie dorme, i suoi figli dormono, lui sveglio decide che deve andarsene. Lo aspetta un materasso per terra a casa di un amico. È la ricerca di Nina. Questo invece credo che sia Nell'intimità di Hanif Qureshi. E poi Luca ancora mi scrive di un libro che si chiama Il male oscuro, un uomo che si sente malato dentro e la ricerca di questa sua malattia. Valentina, vabbè, questo è Woody Allen. Ho fatto un corso di lettura veloce, ho letto Guerra e Pace, parla della Russia. Lorenzo: Raskolnikov uccide una vecchia e la sorella. Sclera conosce Sonia, che lo fa costituire e lo manda in carcere in Siberia. Lei lo segue. Delitto e castigo. 800 24 0024, 349 238 6666. Il libro in pochissime parole, un sms o in una telefonata. Elisabetta: nella prima parte Dostoevskij confronta l'uomo e niente, questa è un'analisi di un libro, chi se ne frega. Ivano: In Gadir di Arno Schmidt. Ehi ragazzi, come siete raffinati, eh? Il protagonista è Pitea, esploratore marsigliese da 52 anni prigioniero di Cartagine perché non riveli le rotte per lo stagno delle isole del nord. Dopo lunga preparazione, Pitea finalmente fugge con audacia e determinazione e riprende finalmente il mare. Ma una lettera del suo carcere ci informa che Pitea è morto nella sua cella e che si trattava del suo ultimo sogno. Qualunque sia il libro, il numero è 800 24 0024, oppure 349 238 6666. Il libro invece che riguarda me è questo qui. Era un uomo di pessima reputazione. Quando morì un anno fa, il New York Times scrisse: se n'è andato la Greta Garbo della letteratura. Era J.D. Salinger, l'autore del Giovane Holden. Aveva 91 anni, molti soldi e una casa del New Hampshire. Detestava concedersi ai giornali e alle televisioni. Da oltre 50 anni se ne teneva alla larga e per questo si era costruito una fama che non era la sua. Gliel'avevano appiccicata addosso. Un signore che se ne va in giro pallido, pensoso e chiuso in sé. Un misantropo, un eremita, un tipo cupo e sgradevole, desideroso di non misurarsi più con un mestiere che gli ha consegnato in gioventù l'eterna libertà dal bisogno. Uno così non lo si può neanche mandare in psicanalisi. Ecco, adesso si scopre che queste erano tutte balle. L'inavvicinabile Greta Garbo di Manhattan era in realtà un instancabile viaggiatore e aveva una lunga serie di passioni. Le donne, McEnroe e Tim Henman. Il Burger King, Londra, Regent's Park, lo zoo, il teatro, Chekhov e le cascate del Niagara. Naturalmente la scrittura. Lavorava ogni mattina e per 25 anni ha archiviato la sua opera. Non è ancora pronta, diceva. Non ho nessuna fretta di pubblicarla. Non nascondeva neppure le sue avversioni. In testa alla classifica Ronald Reagan, George Bush, Margaret Thatcher e Ian Hamilton. Lo studioso decise a scrivere la sua biografia senza averne ottenuto l'autorizzazione. Disse di lui: lo odio. Ecco, io ho questa passione malsana per le biografie. Prima di vedere un film, di incontrare un tizio, di leggere un libro, mi piace sapere chi è quel tizio lì, chi è il regista del film, chi è l'autore del libro. Che sembra una cosa morbosa, e non lo so, forse lo è. Certo, è una cosa che mi ha creato qualche problema, qualche imbarazzo, visto che fin da bambino tendevo a fare un sacco di domande. Tipo agli amici dei miei, quelli che incontravamo in casa nostra, oppure al mare, li riempivo di domande. Alcune a detta dei miei impertinenti, tipo: ma perché non avete figli voi due? Oppure: quanto costa questa macchina? E questa barca quanto costa? Scusa, dove te la sei fatta quella cicatrice orribile? Il fatto che fossi un bambino faceva passare le domande un po' come l'ingenua curiosità di un ragazzino. Però il fatto è che io anche oggi faccio queste domande e un po' mi stupisco quando la gente le svia, quando mi dicono: scusami, e tu? Come a dire: racconta un po' anche tu. Nathalie mi ha raccontato che qualche sera fa è andata a prendere un caffè con una tizia che lavora per una società di selezione del personale. L'incontro era stato organizzato da una sua amica, che era arrivata alla fase finale delle selezioni per un posto in un'azienda farmaceutica. E una delle fasi di questa selezione era conoscere 3 amici e 3 parenti del candidato. La sua amica le aveva quindi chiesto se poteva essere lei una dei 3 amici. Lei ha accettato e ha fatto questo incontro con la selezionatrice. Questa le ha fatto una marea di domande su questa ragazza. Domande per lo più stupide, tipo frequentazioni, trascorsi in gruppi politici, interessi, pregi, difetti, uso di droghe e poi i soliti 3 aggettivi per definirla. Insomma, una boiata. Però alla fine il succo è quello lì, cioè è conoscere i dettagli della vita di una persona. Perché alla fine sono quelli, più che il mestiere che si fa o il luogo in cui si vive, che raccontano meglio di noi. Ecco perché prima di mettermi a rileggere Il giovane Holden ho voluto andare a cercare meglio chi era il suo autore. Quindi, quando avevo più o meno inquadrato Salinger, mi sono messo sul divano, ho preso in mano il libro e l'ho iniziato a leggere. Capitolo primo. Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com'è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io. Tutte quelle baggianate alla David Copperfield, insomma, ma a me non va proprio di parlarne. Primo, quella roba mi secca. Secondo, ai miei genitori gli verrebbero un paio di infarti se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto. Ho iniziato a leggerlo e dopo un'ora non mi c'ero ancora staccato. E no, lo dico perché per me è una roba davvero notevole questa. È un libro incredibile. La cosa meravigliosa è che praticamente non succede niente. C'è sto ragazzo di 17 anni, Holden Caulfield, e l'hanno appena cacciato da scuola. Lui parla in prima persona in tutto il romanzo e ti racconta quello che pensa. Ora, io non ricordo esattamente com'era avere 17 anni, però sono praticamente sicuro che sia esattamente come la descrive questo libro. Nella prima metà del libro, che poi è più o meno quello che ho letto finora, ci viene descritta sì e no una sera tipo nella vita di Holden Caulfield. Holden racconta tutto come se fosse un aneddoto, cioè come se qualcuno fosse lì davanti ad ascoltarlo. Ora, è chiaro che questa persona dovrebbe essere terribilmente paziente, perché Holden racconta tutto, ma proprio tutto quello che gli passa per la testa, e divaga, come se non ci fosse domani. Il che poi è praticamente quello che faccio io un po' tutti i giorni con voi. E poi Holden racconta e si ritaglia questi siparietti, no? Questi momenti di illuminazione. E le cose che dice, a volerle stare a sentire, sono davvero così preziose che uno si chiede come gli siano venute in mente. Forse perché in fondo è un po' psicopatico. Cioè, neanche poco, in effetti. È dall'inizio del libro che tutti gli consigliano di andare dallo psicologo. E allora mi è venuto da pensare che essere un po' matto, non matto, però magari un po' spostato, sia la condizione imprescindibile per scoprire il mondo, al di là di quello che ormai siamo abituati a vedere, no? E magari farlo scoprire anche agli altri. Ecco, c'è un pezzo magnifico che ho già riletto un paio di volte. Sono le parole di uno dei professori preferiti di Holden, e dice così: molti uomini si sono sentiti moralmente e spiritualmente turbati, come te adesso. Ecco, per fortuna alcuni hanno messo nero su bianco quei turbamenti. Imparerai da loro, se vuoi. Così come un giorno, se tu avrai qualcosa da dare, altri impareranno da te. È una bella intesa di reciprocità, e non è istruzione, è storia, è poesia. Tutto quello che sono disposto a raccontarvi. Probabilmente potrei dirvi quello che feci quando andai a casa e come mi sono ammalato e via discorrendo. E a che scuola dovrei andare in autunno, quando sarò uscito da qui. Ma non ne ho voglia, sul serio. Ora come ora, queste cose non mi interessano molto. DB non è tremendo come gli altri, ma anche lui continua a farmi un sacco di domande. L'altro sabato è venuto in macchina con quella bambola inglese che prenderà parte al nuovo film che lui sta scrivendo. Era una posatrice fenomenale, ma bella da morire. Ad ogni modo, quando a un certo punto è andata alla toiletta delle signore, quella che sta a casa del diavolo nell'altro reparto, DB mi ha domandato che cosa ne pensavo io di tutta questa storia, quella che ho appena finito di raccontarvi. E io non ho saputo che accidente dirgli. Se proprio volete saperlo, non so che cosa ne penso. Mi dispiace di averla raccontata a tanta gente. Io su per giù so soltanto che sento un po' la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Perfino del vecchio Stradlater, del vecchio Ackley, per esempio. Credo di sentire la mancanza perfino di quel maledetto Maurice. È buffo, eh? Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti. Come il mare, Wilbur Smith, una sorta di Carpe Diem dietro una storia ambientata sul mare. Claudio, no, però non voglio recensioni o pareri, voglio proprio il riassunto. Ad esempio, Achille, la casta, riassunto è: che schifo. Un uomo nasceva e viveva su una nave, per vivere suonava, per suonare viveva sulla nave, morì su di essa e non scese mai. Non mette il titolo, ma immagino sia 900. Devo dire baricco a gogo tra gli ascoltatori, ma anche Piccolo Principe. Claudio, hai notato anche tu, tanto Piccolo Principe, e non so se è una buona notizia. Il deserto dei Tartari, tutta la vita ad aspettare che accada qualcosa scrutando l'orizzonte, poi qualcosa si muove e sta per accadere, ma per il protagonista è troppo tardi. Un ritrattista della Venezia del Settecento con un grande amore nascosto. Vabbè, ma questo non va. Valentina, il libro che non riesco a pubblicare. Allora, Valentina, diciamo, parliamo solo dei libri che sono già pubblicati, con tutto il rispetto per i libri nel cassetto che avete e che sicuramente verranno pubblicati, magari postumi, e quindi avrete successo da morti. Il successo sarà ancora più bruciante, sarà ancora più forte perché siete morti. Però adesso, per il momento, parliamo solo dei libri che sono fuori, diciamo, in libreria o in biblioteca. Solaris, uno studioso va su un pianeta dove avvengono fatti strani. In realtà è un cervello che rende reale l'amore perduto di una moglie morta. Wow. Un piccolo principe che viene da un mondo lontano, grazie. Un uomo viene accusato di un crimine sconosciuto e mai commesso. Il processo, Kafka. Andiamo però a sentire invece che dagli SMS, dalla voce ad esempio di Gianmario da Trento. Pronto Gianmario? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Abbastanza, anzi, ieri è nevicato qui, ero però, insomma, va bene così, diciamo. Ma tu che cosa fai Gianmario a Trento? Lavoro nel parastato. Cos'è il parastato, perdonami? Prego? Che cos'è il parastato? Parastato significa inel, inps, inter. Ah, ok, esattamente, non me lo vuoi dire? È un segreto? I miei colleghi, cioè gli uffici di sopra e io abito di sotto. Cioè, tu abiti sotto gli uffici dell'INPS? Sì, praticamente, c'ho il mio piede a terra, diciamo così. Certo. Il mio appartamentino, però diciamo così, si alza un po' la voce, mi sento, capisci? Ok, allora... va bene, allora lasciamo stare Gianmario, andiamo invece al libro di cui vuoi fare il riassunto in pochissime parole, fammelo presentare. Gianmario riassume Libro Cuore di De Amicis. Il libro cuore, e ti dirò anche il motivo. Vai. È un libro per me che leggo ancora, praticamente no, che prima di entrare nell'ente dove lavoro adesso ho insegnato fino ai 30 anni, adesso sono 37 praticamente. Gianmario. E lo leggo ancora perché è un libro che ogni giorno ti dice delle cose nuove. Mi dà la carica. Benissimo, Gianmario, siamo già oltre il tempo, fai il riassunto in due parole. Diciamo così, è l'essenza dell'amore. Niente. Gianmario, grazie mille. Il riassunto del libro Cuore è cuore. Andiamo avanti, passiamo a Maria della provincia di Monza Brianza. Pronto Maria? Pronto? Ma esiste la provincia di Monza Brianza? Sì. Ma scusa, ma non le devono abolire queste province? Va bene, parlo dopo con Barisoni. andiamo al libro. Il libro è? Un uomo della Fallaci. Maria riassume Un uomo della Fallaci. Un uomo che è vissuto nella spasmodica ricerca del potere, quando l'ha trovato si è accorto che non aveva in mano nulla. Maria, grazie mille. Adesso la borsa e poi Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo di fronte a un gruppo di donne, direi di giovani donne che sono in posa. La posa è un pochettino quella delle foto delle scuole medie o del liceo, però questa non credo sia una classe, innanzitutto perché sono tutte donne. Insomma, esisteranno anche le classi solo femminili, però insomma non è una classe per motivi molto semplici, perché dietro di loro hanno un tendone che è chiaramente un sipario. Sulla sinistra c'è un albero di Natale, che però più che un albero di Natale sembra parte di una scenografia, e sulla destra c'è proprio lo spigolo di un tavolino con sopra probabilmente un telefono. Quindi così a naso ho il timore che siano un gruppo di teatro. Dico il timore perché sono solo donne, non c'hanno manco uno straccio di uomo, e non esistono testi teatrali solo per donne a parte due, ma sono sempre quelli. Loro sono esattamente 2, 4, 6, 8, 11, 12 donne, sono tutte vestite normali tranne una che è vestita da cameriera e l'altra che è vestita da danzatrice di flamenco. Camilla Santoni, 24 anni, Pistoia. Siamo nati come un gruppo di amici e ora siamo un gruppo di teatro. A marzo torniamo in scena con uno spettacolo su dei personaggi famosi della mia città che è Pistoia. Io sono qui. Oh, così abbiamo fatto anche la soletta che a marzo possiamo andarci a vedere lo spettacolo di Camilla Santoni. Però Camilla non ci ha detto come si chiama il gruppo di teatro. Avrà un nome tipo... Lo sappiamo Claudia? No, non lo sappiamo. Avrà un nome tipo Le Streghe di Pistoia? No, quelle robe che... Di solito le donne si danno così per far sentire che sono donne. Mi fermo qui, altrimenti mi infratto in un ginepraio. 349-238-6666. Il mondo è stato sconvolto da una catastrofe. Un uomo lo percorre con il suo bambino cercando di insegnargli che cos'è la speranza. The Road, Cormac McCarthy. Stiamo riassumendo libri in pochissime parole. Ci stiamo provando con gli sms e con le telefonate. Un anello, un gruppo di eroi, un cattivo. Molta fantasia. Il libro è Il Signore degli Anelli. La solitudine dei numeri primi. Un bel libro che fa riflettere, perché i numeri primi sono divisibili. Vabbè, ma chi se ne frega, cerchiamo i riassunti, non le recensioni. Pazzini ha anche bisogno di cross. Niente, qua c'è gente che manda i messaggi per Garanzini, grazie. Toru ha 39 anni, è su un aereo e una canzone dei Beatles gli riporta alla mente il grande amore della sua vita, perso a 19. Tokyo Blues, Haruki Murakami. Un ultimo velocissimo, eccolo qua. Elisa, che giornata. Il libro è Sabato, di Ian McEwan. Andiamo però, da che parte andiamo, Pietro La Corte? Dimmi tu, andiamo a Brescia, andiamo da David. Pronto, David? Ciao. Ciao, tu... Sì? No, dimmi, è ripartito già? No, volevo farti complimenti per la trasmissione. Ah, ok, ti ringrazio. Senti, andiamo invece al dunque, andiamo al libro di cui ci vuoi raccontare in pochissime parole, che è 2 di 2, di Andrea De Carlo. Vai, David. Esattamente. Il libro è riassumibile con una frase che si trova nei primi capitoli, che è inutile andare in un posto per poi lamentarsi di esserci venuti. Il libro è praticamente la storia di due ragazzi diametralmente opposti, non però la solita lontananza di classe sociale, ma per i comportamenti. Quando l'hai letto questo libro, David? Allora, l'ho letto 2 anni fa in una settimana scarsa, cosa per me... Incredibile. Quanti leggi libri, quanti libri leggi di solito al mese? Sì, al mese un paio al massimo. Beh, che comunque è una buona media. Quanti anni hai, David? 20. E che cosa fai? Studi, ovviamente. Sì, sono studente di commercio estero a Bergamo. Commercio estero? Sì, è una facoltà di economia. Nuova? No, è anche abbastanza ben avviata. David, ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Un uomo che, tornato dalla guerra, perde la sua metà oscura, la quale incontra tornato al suo castello e inizia la sua battaglia interna. Il Visconte dimezzato. Angelo dalla Spezia. Pronto, Angelo? Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Tutto bene. Sei in macchina? Mi sono fermato. Bravissimo. Riassumimi il libro e dimmi che titolo è anche. Allora, il libro è Voci, sì? Di Prokosh, pubblicato da Adelphi. Quindi ecco, già tu mi dici Adelphi, quindi roba altissima. No. Cioè, non un Mondadori qualunque, non un Sperling Cup. Cioè, esatto, infatti, quindi roba già difficile, che deve avere almeno... Sono figlio di un libraio. Come? Sono figlio di un libraio. Appunto, quindi deve avere almeno, diciamo, il diploma per leggere la roba della Delphi. No. Sì, dai. Può leggere chiunque. Va bene, raccontami il libro. Allora, Prokosh ha avuto la fortuna di raccontare un secolo attraverso le sue conoscenze, che sono la quintessenza della cultura mondiale. Mazza, ma questa ce l'hai scritta, Angelo, o te la sei... No, sono in macchina, ho scattato per caso per la prima volta la vostra trasmissione, sì? E mi è piaciuta molto. E mi fa piacere. Ho telefonato, non l'ho mai fatto nella mia vita. Guarda, Angelo, dicono tutti così, ma io a te questa volta credo. Lo giuro. Ti ringrazio, ciao, buona giornata. Buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo da Alessandra, provincia di Pavia. Ciao, Alessandra. Ciao. Alessandra, adesso dimmi che è la prima volta che senti il programma ed è la prima volta che chiami in una radio in vita tua. Assolutamente no e assolutamente no. Ok. Benissimo. Andiamo al libro. Brava. Andiamo al libro, ok? Non buttiamoci giù. Esatto. Di Ornby. Allora. Editore Wanda, cos'è? Non me lo ricordo. Però non di solito di solito sì. Vabbè, ma chi se ne frega anche. Invece riassumimi il libro. Allora, sono 4 persone, se non sbaglio 2 ragazze e 2 ragazzi, con esperienze di vita totalmente diverse, che si incontrano su un grattacielo una notte e vogliono suicidarsi tutti quanti. E iniziano a parlare, si raccontano le loro storie e fanno a gara a chi è più disperato. Che a me questa cosa ha lasciato molto perplesso. Come finisce? Che scendono e vanno ognuno per la loro strada. Benissimo, quindi diciamo nessuno si butta. Okay. La cosa bella è che comunque è scritto sempre in prima persona, quindi chiunque parla... racconta se stesso, racconta della sua vita e a volte commenta la vita degli altri. Cioè, quindi è monologante, insomma, il libro, esatto, da punti di vista diversi. È molto coinvolgente. A me benissimo. È piaciuto molto. Alessandra, grazie mille, buona giornata. Grazie a te, ciao, buona giornata. Grazie, una cosa di cui sono sicuro è che Orbi non è ad Elfi. Sicuro, sono sicuro. È Wanda, grazie. Un giallo in un monastero del 300, la cui morale è che i colpevoli dell'uccisione dell'intelletto siamo noi, il nome della rosa. Un inetto è incapace di realizzare i suoi desideri perversi, ma sarà il destino a dargli soddisfazione, almeno in parte. Lolita di Nabokov. Andiamo a sentire Giusy da Brescia. Pronto, Giusy? Pronto. Ciao. Ciao. Raccontami lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Un padre che si scopre durante il libro, esce, è uscito tipo da un manicomio o una struttura di questo genere, e organizza un viaggio on the road in moto col figlio negli Stati Uniti per cercare di recuperare il rapporto. Giusy, ti ringrazio, e anche se non avessero scritto che eri di Brescia, dalla pronuncia di moto lo avevo capito. Andiamo da Stefano da Perugia. Pronto, Stefano? Ciao, buonasera. Buonasera Stefano, che libro mi vuoi raccontare? Beh, diciamo fra i tanti che rileggo, diciamo, spesso, poi adesso è anche un po' un clima particolare, Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Perché lo rileggi spesso, scusami Stefano? Ah, perché diciamo tutto sommato quello, la guerra purtroppo, che sia stata quella della prima guerra mondiale, che siano altre, poi anche perché c'è un discorso affettivo, perché immagino il padre di mio padre faceva parte di quei ragazzi e molte volte ci ha raccontato certe cose. E Stefano, in pochissime parole, di che cosa parla questo libro? Il libro parla praticamente di uno squarcio di guerra in trincea con la stupidità di un generale che manda al massacro tutti quei ragazzi cercando di conquistare una trincea nemica, e quindi c'è questo macello continuato. Fino a che obiettivamente, dopo un cumulo di morti, riescono a conquistare, diciamo, piano piano si va verso la vittoria. Stefano, scusami, perché poi devo salutarti, ma dove ti trovi? In un cortile? Sono qui vicino, sono vicino dei cani. Infatti, sentivo, sei all'aperto. No, mi sono fermato su una piazzola perché sono in macchina, allora qui vicino ci sono. Stefano, deve essere un allevamento. Ti ringrazio moltissimo, buona giornata. Altrettanto. Ciao, grazie. Ce l'abbiamo il tempo per... Ecco, perché prima ho parlato del Piccolo Principe e c'era solo una persona da cui potevo farmi raccontare il riassunto del Piccolo Principe. È un'ascoltatrice che sentiamo periodicamente ormai dall'anno scorso, è la signora Cesarina da Torino. Pronto, Cesarina? Pronto, Matteo? Come stai? Bene, senti. Dimmi. Tu le ricevi i miei email quando te le mando? Sì, le ricevo, però magari queste cose ce le diciamo fuori onda, Cesarina, perché adesso ho pochissimo tempo, quindi facciamo che mi racconti il Piccolo Principe in due parole, proprio due, Cesarina. Ma sopra un asteroide il Piccolo Principe coltiva una rosa, ma solo cadendo sulla terra e parlando con una piccola volpe capisce l'importanza e la grandezza dell'amore e dell'amicizia. Cesarina, sei magnifica. Ci sentiamo via mail. Io sono qui, @radio24.it. Salutami tuo marito. Grazie. Ciao Cesarina. Matteo. Ciao, grazie. Vorrei chiudere dopo Cesarina con un ultimo pezzo tratto dal Giovane Holden. Non è riassunto, tanto ormai riassunto l'avete capito. È l'iniziazione alla vita di un ragazzo. È un pezzo che riguarda un punto saliente, o perlomeno per me è sembrato tale. Poi dalla finestra, proprio sopra quella, vidi un uomo e una donna che si sputavano l'acqua addosso. Probabilmente era liquore e non acqua, ma cosa diavolo c'era nei bicchieri? Non potevo vederlo. Ad ogni modo, prima lui prendeva una sorsata e la sputava addosso a lei, poi lei faceva la stessa cosa a lui e facevano a turno. Il guaio è che certe porcate si resta lì incantati a guardarle, in un certo senso, anche se uno non vuole. Quella ragazza che si faceva sputare l'acqua in faccia, per esempio, era abbastanza carina. Voglio dire che il mio grande guaio è proprio questo qui. Con la fantasia, probabilmente, sono il più grande maniaco sessuale che abbiate mai visto. Certe volte sono capace di immaginarmi delle vere sconcezze che non mi dispiacerebbe di fare, se appena se ne presentasse l'occasione. Questo è un capitolo del Giovane Holden, scritto da Salinger, e poi c'è una piccola nota che ho aggiunto io, quando lo lessi, a margine, a matita, che dice: che bello sapere che non sono l'unico a pensare certe schifezze. Grazie a Salinger per averlo scritto, grazie a Claudia Carusi, a Tiziano Bonini e a Pietro Lacorte. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?